Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Bam bam, mon sas place, j'y sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vide. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. L'analisi del voto è la seguente: due punti. Non abbiamo perso, abbiamo straperso. Punto. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. La prima regola del nuovo corso, perché se hai sbagliato qualcosa devi cambiare, la prima regola del nuovo corso deve essere quella di ascoltare di più, io per primo. Ho accettato i suggerimenti di chi ha chiesto di non fare del congresso il luogo dello scontro del partito sulla pelle del paese. Siamo nella fase nuova, la fase zen. Io voglio un PD in cui Renzi non sia segretario. Io e voglio sì, un altro invece? PD. Ma io vorrei fare il segretario del PD. Ho cercato lungamente in questi minuti quali fossero delle parole, diciamo almeno in francese ortodosse, per rappresentare cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando avevamo la possibilità di votare il Mattarellum eri capogruppo, c'erano i vostri ministri al governo Letta. Assemblea del Partito Democratico, e vabbè. Ciao amici, ciao, ciao, sono le 6:31 minuti, sono tornato, sono qui. Sono qui, devo dirlo, anche grazie al calore, all'amore, all'affetto di tutti quanti voi, eh. Ebbene sì, ebbene sì, lo devo dire, mi avete aiutato a togliere, come dire, qualche granellino di sabbia da questo macigno che è arrivato. E va bene, mi spiace, non ho potuto rispondere a tutti quanti voi, sono arrivati migliaia di messaggi davvero di tanti ascoltatori. È una cosa bella, è una cosa bella questa. E mi spiace non aver potuto rispondere a tutti voi, ma insomma avrei dovuto spendere 3, 4, 5 ore al giorno per questo. Però lo faccio qui. Lo faccio qui, vi ringrazio con un immenso grazie, è l'unica cosa che posso dire, davvero, Grazie a tutti. Ci siamo, sono le 6:32, c'è Peter Bescapè sempre lì in regia e Lorenzo Nespoli è sempre lì in redazione. Che bello ritrovarvi, eh. Vi saluto anche, guarda, così. Ciao. Grazie, grazie ancora a tutti quelli su WhatsApp che mi danno il bentornato. Sono qui, ve lo dico subito, però sto qui questa settimana, poi ho bisogno di fuggire. Me ne scappo un paio di settimane se non mi ammalo, perché già sto un po' perdendo colpi con i miei due bambini. E poi dal 9 gennaio siamo qua, più... Vabbè, tanto visto che l'ha sdoganato anche Giachetti, più cazzuti di prima, no? Tanto ha sdoganato un insulto. Attaccare! Eccolo qua, eccolo qua. Intanto alle 6:33 minuti, devo dire che la politica italiana ci regala tantissimo. Avete visto, ieri a Gentiloni hanno fatto il gioco della sedia. Sapete quando c'era il gioco della sedia che si girava tutto intorno, poi... Bisogna sedersi, però manca una sedia rispetto al numero dei giocatori. Gentiloni è rimasto senza sedia. Beh, che bella accoglienza per il Presidente del Consiglio all'Assemblea del PD. non male, non male. È iniziata la fase zen. La mia gatta Zen era molto contenta ieri. Sapete che ho una gattina di nome Zen. Gli ho detto: è iniziata la tua fase. Puoi candidarti alla segreteria del PD, Zen. Puoi candidarti. Lei non ha capito, ha fatto un miau, che vuol dire sempre dammi due crocchette, non rompere i maroni. E via, e siamo andati. Dai, alle 6:34 minuti devo salutare intanto un grande abbraccio a Veronica, la nostra più Veronica meno Milan. Più Veronica sì. Meno Milan. Così non va, Veronica. Va bene, abbiamo riformato la sigla, cara Veronica Gentili. Eccoci questa qua. L'abbiamo cambiata così. Bentornato. Al volo, grazie. Ma grazie, che bello sentirti. Hai visto? Tu hai iniziato la tua fase zen? Ma io sono sempre così calma, tu lo sai, no? Vabbè. Ma... adesso che so che c'hai una gattina che si chiama Zen, questo non lo sapevo. Non lo sapevi? È no, da 4 anni, ma certo, Zen. L'avrei fatto subito presente in segreteria al PD. Scherzi. Ma chiaro, ho mandato subito. Dopo mando guarda, adesso tra poco twitto una fase, la cerco sul cellulare, twitto una foto di sì, Zen. Sì, per forza. Io ho iniziato la mia fase Zen, quindi da un bel po', insomma, da 4 anni. Sei sempre avanti, sei un precursore, sono capito? Sono avanti, certo. Presidente Zen. Del Consiglio ti rincorre malamente. Sì. Tutti quelli internazionalmente ti rincorrono. La gatta, per il look. Segnalo che è la gatta più isterica del mondo, peraltro. Vabbè, è evidente. Questo no, stava sciocchina, dillo. No, quello. Sciocchina, adesso lo dirò, comincio. Va bene, insieme a Veronica Gentili voglio salutare un altro grandissimo amico che abbraccio, il nostro grande Vincino, buongiorno. Buongiorno. Tu la fase Ciao. Zen, caro Vincino, l'hai iniziata mi sa da un bel po', La fase zen proprio mai vista. L'ha mai vista. Proprio non so cosa voglia dire fase zen. Tu sei uno proprio... Tu vicino a Giachetti, in questo momento qua. Lo so. Una nuova fase. Giachetti è la politica stupenda. Ci sarebbe molto bisogno anche qua a Roma di questa fase qua. Sì. So che tu per Roberto Speranza hai sempre avuto parole... di grande amore, di grande stima, soprattutto professionale. Ricordo anche qui varie volte, hai sempre detto che Roberto Speranza è uno dei grandi del futuro del Partito Democratico, se non sbaglio. Mai detto nulla di simile, mai detto né pensato nulla, non l'ho mai capito, guarda. Non ho mai capito perché l'avevamo messo a capogruppo. Non l'ho mai capito, veramente, è una cosa che mi è sfuggita, pensavo che erano tra le note della politica, e invece ora Giachetti l'ha riportato in auge. L'ha portato in auge, va bene. Dai, apriamo il Parlamento. Certo che devo dire che la politica... Ragazzi, se uno esce, prende un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, accorrete. Devo dire che la politica, in questo momento in cui sono... stato a casa ci ha regalato abbastanza, caro. Secondo me l'hanno fatto apposta per farti tornare, io te lo dico. Sì. Abbiamo un conte presidente del Consiglio, un conte, come si chiama? Gentiloni Silveri, Mazzanti viene dal mare, insomma. Soprattutto non abbiamo capito perché hanno fatto presidente Gentiloni e non Gentili, ce lo chiediamo tutti. Però. Era un attimo. E poi caro Vincino, lo fanno anche per te, per gente che poi scrive di satira, disegna, sì. Lo fanno per te, dai. Gentiloni, anche di Gentiloni, ricordo che hai sempre avuto delle grandissime parole. No, ma Gentiloni sì, devo dire, perché Gentiloni come direttore di Nuova Ecologia era stato un bravo direttore. Poi tu è stato traviato da Rutelli e via, si pensa, insomma. Non... ma tu lavoravi per Nuova Ecologia? Ho lavorato per Nuova Ecologia per 10 anni. E che direttore era? Era un direttore che, per dire, ho fatto una vignetta terribile su Rutelli e sua moglie, no? Sì. E si sono arrabbiati moltissimo. E lui ti ha difeso? E lui mi ha difeso, avevano chiesto la mia testa e lui non gliel'ha data, è stupendo. Bellissimo, e si misura così la qualità di un uomo. Per me, guarda, quando chiedono la mia testa e non gliela danno, io sono contento. Insomma, devo dirti. Lo faresti presidente del Consiglio, uno che chiede la tua testa e ti salva, e va bene. Uno che mi salva, no, perché Rutelli chiese la mia testa, scusami. No, Rutelli non l'avrei mai fatto presidente del Consiglio. Gentiloni sì, sì. Ti ha salvato. E poi Veronica, va bene, dai, riassumimela tu, cioè, perché poi c'è anche il 5 Stelle, dopo li sistemiamo. Allora, facciamo un riassuntino da quando sì. tu ti sei assentato. Sì, sì. Praticamente abbiamo fatto un referendum in cui c'è stato lo schianto assoluto di Renzi e del Partito Democratico Renziano. E l'ha detto, abbiamo straperto. E questo sì, ma l'ha detto la direzione di ieri, l'assemblea di ieri, pardon, ha fatto abbastanza sorridere, diversamente autocritica, cioè sostanzialmente il senso del discorso era non abbiamo saputo comunicare, quindi il contenuto era tutto giusto, però la parte fallimentare è stata il famoso storytelling, no? La sì. narrazione, quindi non era una reale autocritica, cioè nella forma è stata autocritica, ma nella sostanza non lo è stata neanche un po'. Quindi questo insomma già ce la dice lunga. E poi appunto abbiamo straperso, però abbiamo ragione noi, abbiamo sempre fatto le cose fatte bene, queste riforme resteranno e le suggelleremo nel programmino dei mille giorni e poi ripartiamo. Intanto ho appena twittato Zen, puoi vederla, si candida ufficialmente alla segreteria del PD per la nuova fase, ma secondo me ce la fa, guarda, perché abbiamo soltanto speranza dall'altro lato, quindi esatto. possiamo, lavorandoci bene si può fare. Ma vabbè, intanto no, che la vedo è sicuro che ce la fa. Ma la questione è questa, intanto Vincino, tu credi a questa nuova fase Zen di Renzi? Nessuno ci crede, in realtà fa un passo di lato per cercare di... Cioè, ne avrebbe bisogno, ne avrebbe bisogno, perché come dire, se riforme fatte peggio di come quelle che hanno fatto, no? Questa riforma peggio di quella non la potevano fare. È come dire, io sono per la riforma, sono per tutte queste cose qua, però falla bene, no? Falla, no, questa storia, i consiglieri senza soldi che andavano a Roma, questi patetici, li devo ospitare a casa mia. Che vabbè, ma questa roba vecchia, dai, ha perso. Ma questo doveva dire, abbiamo fatto una riforma di schifo e la gente ci ha detto che abbiamo fatto una riforma di schifo, no, che non abbiamo avuto, la gente abbiamo comunicato benissimo, la gente ha capito benissimo. Infatti ha votato no, assolutamente no. Vabbè, ma adesso... Renzi, ci credi al fatto? Perché la stampa dice che farà i viaggi studio all'estero, andrà a prepararsi, andrà a fare la fase zen, appunto, andrà... Ieri, fammi dare il tempo di leggere i giornali. Vabbè, ma ho capito, ma l'hai visto che dice ci vuole un nuovo tono, L'ho visto, ma ho visto poi Giachetti, ha preso la scena lui, è stato stupendo, un nuovo linguaggio nella politica. È il linguaggio mio da sempre, ma infatti Vincino me lo disse. Mi ricordo 10 copertine di cuore, copertine del mare, coso, tutto. Avete la faccia come il culo. Sì, finalmente chiaro. Uno della nostra storia che col nostro linguaggio che in politica, alla grande. Lo so, Veronica, era quello che appoggiava anche a Roma e invece a Roma ha perso. Ma possiamo dire insomma che questa polemica è un po' esagerata, dai. Cioè ha fatto bene a dirgli ce la faccio. No, non è che ha fatto bene a dirglielo, però diciamo che ha usato un linguaggio un po' troppo così, un po' colorito se vogliamo, però insomma sul concetto ci io sta. Capisco che era l'unico che potesse polemizzare sulla questione Mattarello, ma ci può star dentro. Diciamo che su tutte le cose, le angherie varie che sono state fatte alla minoranza del PD anche ieri, il senso era un po' se non siete d'accordo, la porta è quella. Sì. Non mi sembra che Giachetti abbia fatto chissà che cosa. Cioè, stai dicendo che poi ce la faccia come il culo, si può dire. Perché devi mettere in bocca cose? Ma per dire che non è una roba così. Io lo direi, tu... Vabbè, ma tu lo diresti, ma questo è Giachetti lì nell'assemblea del PD, è stato candidato a Roma. Cioè, oggi i giornali raccontano si è sdoganato l'insulto, siamo arrivati all'insulto. Esatto, secondo me questo è un po', per questo ti dico che poi si monta un caso, secondo me, un po' sul nulla. Diciamo che una delle cose è che c'è lo streaming, che diventa un po' ogni volta una specie di palcoscenico da cui farsi vedere un po' da tutto il mondo e anche tirare fuori le proprie... qualità leaderistiche e quindi diventa un po' uno show. In questo senso, ok, però in assoluto comunque è non è una cosa, dici, no, ma è interessante, cioè dici, non è una cosa, è una cosa che ci può stare, insomma, in una sorta di linguaggio. Teoricamente, se come dovrebbe essere un'assemblea del PD fosse un confronto tra persone che stanno all'interno di una stessa comunità e che possono avere degli scambi, ma dai, nel momento in cui... ma va bene, ma ci sta, dai, vinci, ma quello che Vincino da 30 anni dice, infatti, però non ti hanno fatto mai segretario di nessun partito. Ma assolutamente no, ma guarda, ma io sto lontano, guarda, non è che la politica è una cosa che bisogna dire, fa ribrezzo, è proprio una schifezza. Hai visto che è comparsa tra l'altro la Malena, la pornostar che io ho intervistato prima di tutti per La Verità, peraltro aveva annunciato già 2 mesi fa, andrò all'assemblea del PD, Malena Mastromarino, Vincino, hai notato? No, non l'ho notato. Non l'hai notata. Purtroppo nemmeno io, però. Possibile? Forse è quando c'è la pubblicità. Perché ma come è possibile? Tanto, no, guardandola con Sky mettono la pubblicità nel momento tra i delegati all'assemblea del PD, la nuova pornostar Milena Mastromarino. Ma come non l'hai notato? Neanche non tu, Veronica, l'ho persa. L'hai persa. Purtroppo, secondo me, c'era veramente la pubblicità, perché l'ho persa anch'io. l'ha mandata durante la pubblicità per cercare di insabbiare questo scandalo all'assemblea del PD. Secondo me è andata così. Vabbè, insomma, non credete molto al Renzi che dall'io, io passa al noi, alla nuova fase zen. Vi piace più Giachetti, ho capito. Vabbè. Però dobbiamo fare una constatazione. Cioè? La cosa che più tragica di ieri sono le citazioni. Allora, secondo me andrebbero interdetti dal citare. Chi così. Ha citato Sartre? Chi ha citato? No, ha hanno citato qualunque cosa a proposito. Qualunque. Ha cominciato con le periferie del nostro scontento, sì. Citandomi il Riccardo III di Shakespeare, così a caso mi sono sentita male subito. È stato l'inizio. Subito. La pensatrice Veronica Gentili, capisci? Subito. No. Capisci? Non mi puoi fare questo, messo lì così senza un perché. E poi ha citato Neruda e a un certo punto lo dice, vieni diffidato, no? Dopo il quinto ginnasio a citare Neruda in pubblico senza sei diffidato. Sì. E poi basta. Poi sono andati avanti tutti, poi ci sono stati vari interventi, insomma. No, ma è giusto, però adesso noi dobbiamo andare al traffico, perché ti ho tenuto caldo Vincino finora. Roma, tra poco, calmati, pensa. Ma poi mi devi dire cosa pensi del 5 Stelle a Roma. È la tua città, dopo tutto, insieme a Palermo, che ieri ha trionfato incredibilmente, a Genova, e quindi... Vabbè, ma Roma, tra poco, State qui. Il primo premio va al traffico, con il pelo lungo e le corna belle. Uy, guagliù, avete sentito? C'è sta una canzone nuova per Natale. Tu scendi dalle 5 stelle. Milan, ma questa Gentili, ma da dove nasce? Chi è? Cioè, che fa questa? Che valore aggiunto dà a questo paese? Oh Maria, e sono una cresta, ma ora si sta parlando di primarie, di qua di là. Ma lo sai se fa le primarie te, la Veronica, è vicino, è un vivo sereno su di te. Sapore di sala. Sapore di marra, tra Roma e Milano, che voglia di grano, col PM in ufficio, che ti voglio parlare, ma proprio a me, sì, proprio a te. Effettivamente, se Roma sta così, non è che Milano ride, questa era Crozza con Sapore di sala, sapore di marra. Che meraviglia. Che meraviglia. Vabbè, allora avete capito, il nostro Anacleto dice che se ci candidiamo alle primarie, soprattutto voi, basta, non vota nessuno. Veronica, non so, che valore aggiunto dai al mondo, devo dire? Non lo so, però io... Cioè, adesso c'è questa cosa che uno deve dare un valore aggiunto al mondo, ma perché tu, caro ascoltatore, che valore aggiunto al mondo dai? Non lo grazie per la difesa sciocchina mia, però se mi date il numero di telefono dell'ascoltatore, poi glielo spiego io in privato. Va bene. Intanto fa dei gran selfie che mettiamo su Twitter, la nostra Veronica. È arrivato. Oggi sono in versione natalizia, perché ero un po' così, scendo anch'io dalle stelle. No, perché ho visto Lorenzo Nespoli esultare come un gol del Milan al 94esimo, il che vuol dire che è arrivato il selfie, cioè, evidentemente quando succede così. Però, caro Vincino, eccoci. Allora, eccoci. La tua Roma, la Roma che ami, la Roma che vorresti governata bene, per risolvere. No, no, va bene così, aspetta, no, perché qua praticamente io ti spiego la storia di Marra. Sì. Marra aveva detto alla Raggi: in 5 anni ci sistemiamo per la vita, tu lascia fare a me che io so fare, no? Dai, perfetto, dai, gli aveva già fatto vedere l'appartamento vista fuori, che Scarpellini aveva messo da parte per lei. No, e lei andava tranquilla, era felice, fa satira, assolutamente, in 5 anni si sistemava per la vita, perché poi Roma controlla miliardi di società, conta per tutto, no, come Marra messo al posto giusto, assolutamente, cioè uno deve abbia bisogno di gente che sa fare queste cose, perché secondo me è quello, è pratica naturalmente, no? E quello gli ha fatto vedere: in 5 anni ci sistemiamo per la vita. E lei per questo diceva: mai, se lo portava sempre dietro, assurdo, andava a parlare con Renzi, con Marra. Uno va la presidenza del Consiglio e si porta Marra. Ho capito, perché Marra, guardava, faceva le cifre, cose, cioè 3.400, sapeva tutto. Adesso però in realtà tutto. La vera questione è Di Maio. Perché Di Maio, lui ha fatto un post in cui ha detto: io gli avevo già detto di andare via Marra, però tutti i giornali vanno a vedere le interviste e pare che in realtà questo senso di distacco tra Di Maio e Marra non è che c'è grande notizia, almeno andare a vedere le interviste, andare a vedere le dichiarazioni, andare a vedere... Questa Raggi rischia di essere veramente la spada di Damocle del Movimento 5 Stelle. Ma io non capisco, tu lo sai il mio livello, non è che non l'abbia detto nel tempo quanta fosse la mia diffidenza nei confronti della Raggi e quanto secondo me si portava dietro. Guarda, io dietro. Dico una cosa e penso di non essere smentito, mi smentirebbero ovviamente ufficialmente, è così. Io sono convinto, sono convintissimo e lo posso assicurare, cari ascoltatori, che i problemi della Raggi a Roma fanno esultare soprattutto alcuni del Movimento 5 Stelle. Non vedono l'ora che la Raggi cada, ve lo posso assicurare al 100%. Poi smentiranno, Vincino, te lo posso assicurare. Ma è così. Non smentiscono così. Nemmeno. Ora tra una così. Settimana, 10 giorni, usciranno le intercettazioni di Marra con la Raggi. Tutte le chiacchiere che si sono fatte dentro, durerà un mese questa storia. No, ma lo dico stupenda. perché è la verità che all'interno del Movimento 5 Stelle sono pentitissimi della scelta ricaduta su Virginia. Sono dai primi 10 minuti. Ma non lo potranno dire mai così. Ma perché, guarda, voglio dire, secondo me ci siamo quasi. Io sono convinta che lei non durerà, e nonostante appunto tutti i simpatizzanti 5 Stelle non si rassegni, non tutti, soltanto appunto una parte che ancora la difende strenuamente, dice datele il tempo. Tuo giornale. Il tuo giornale, sì. Il mio giornale. Oggi c'è scritto amore mio. Il tuo giornale l'ha difeso fino a ieri. Amore mio. No, guarda che oggi sui giornali c'è il dibattito su il partito Fatto Quotidiano, cioè c'è Travaglio che diciamo la difende. Diciamo che le posizioni non sono omogenee all'interno del Fatto Quotidiano e la prevalenza delle persone non la difende. Poi c'è Travaglio che però in quanto direttore bisogna dire che non è che censura gli altri, perché tutti noi non la difendiamo, e non è che lui su questo ci abbia detto no, la linea giornale è che va difesa. C'è Marco Lillo non l'ha difesa, Padellaro che poi avremo ospite più critico, Padellaro, Caporale, chi più ne ha più ne metta. È stato l'unico giornale che ha intervistato Marra chiede a Scarpellini interviste per riparare la sua immagine, è l'unico giornale che la fa, è il Fatto. E allora, è che si può? Ma una cosa, come dire? Vincino, guarda che Scarpellini, io me lo ricordo, 6 mesi fa l'abbiamo invitato anche noi, l'abbiamo ispirato, è stata un'intervista magnifica in cui Scarpellini magnifico. Ma Marra è insopportabile. Ma che vuol dire non può intervistare? Dai, adesso non fa il censore. Vedi il caso, allora. Marra chiede a Scarpellini di avere delle interviste a Roma. L'unico giornale che gliela fa è il Fatto. Ma no, dai. È così, sono due fatti questi. Sono due fatti. Il Fatto, sono tre fatti. Il Fatto. Non è male. Veronica, ti difenderò. I giornali che compro ogni giorno. Veronica, ho già l'alabarda. Adesso lo trafiggo questo vecchio uomo di satira. Lascia fare, io non dico nulla, però ho già risposto. Cioè, Travaglio pensa quello che pensa lui, gli altri pensano quello che pensano loro. Nel momento in cui c'è cittadinanza per tutte le opinioni, ognuno può pensare quello che vuole. E poi, signori, c'è lui. E poi, signori, c'è lui. Vi posso lasciare, secondo voi, senza il Brunetta del giorno? Ragazzi, io faccio l'appello a tutti i giornalisti. Non è possibile. Se voi pensate di intervistare Brunetta senza litigare, non è possibile. Ha litigato anche con una graziosissima collega di Sky in un'intervista. Eccolo qua. Mi dà due minuti per andare da De Marchi. Mi poi faccia da delle lei. Domande. Brunetta. No. Cortesemente. No. No. No, vabbè, e allora, no, no, perché non era questo lo, non era questo lo, il format dell'intervista sua. Dica. Mi scusi, mi chiami magari il presidente Brunetta? Mi chiami magari il presidente Brunetta, onorevole Brunetta, ma Renato, che questo non professor cambia. Brunetta. Non è che io ho meno rispetto di lei se non la chiamo presidente. Un po'. Le chiedo un po' di gentilezza, le chiedo un po' di gentilezza. Ma non andiamo importa. Avanti, andiamo avanti. Io rispondo dai, a tutte le domande. 5 Stelle, presidente allora, Brunetta. Io penso, andiamo avanti, dai, lo dico io a lei. Mi faccia le domande e mi lasci rispondere. Brunetta, no, Brunetta, ma non puoi. Qualsiasi cosa tu dica, qualsiasi, se stai zitto, stai zitto, se parli, va, andiamo avanti, lo dica, mi chiami presidente, mi chiami professore, mi chiami premio Nobel mancato, mi chiami, insomma, così, è Brunetta. Ho riconosciuto la collega di Sky, che pazienza. Chi è? Credo fosse Stefania Pinna. Ah, brava. Dalla voce Stefania. Credo fosse lei, ha mantenuto un grande applauso. Lo so. Ma Brunetta so. Impazzisce in televisione. Anche l'ultima volta che è andato dalla Gruber, c'era la Gruber, non sapeva come tenerlo sul tavolo. Sì. Però io devo dire una cosa, c'è... Allora, non vorrei dare il premio Giachetti. Potremmo istituire il premio Giachetti. È un bel premio. Dai, il premio Giachetti. Senza dai. Così, stiamo senza... Sciocchina, questa è l'istigazione al turpiloquio. Vedrai adesso come ti linciano. Sciocchina 2. Due, cavolo, oggi ho fatto veramente va bene. Poco, allora, il premio Giachetti, secondo me, potremmo istituirlo così, va a Vincenzo De Luca. Ma come? Ah, certo. Ma come? Ma ci ha messo 4 secondi a scendere dal carro del vincitore. 4, che in questo caso è il carro del perdente. Vincenzo De Luca. In corsa. Ma Vincino, ma ti pare? No, che ha fatto? Non lo so. Ma dai, ma 4 secondi dopo che Renzi ha perso ha detto che... Ma Renzi, ma proprio... Ma è un giovanotto, non ha capito niente. Ma come? Ma De Luca? Vabbè, comunque De Luca è sempre un mito. Senti qua, De Luca. Senti. Ho visto una registrazione della dichiarazione del sindaco di Roma, Raggi, quando ha annunciato di notte le dimissioni dell'assessore Muraro, il sindaco a cui facevano ala dietro tutti i consiglieri comunali delle 5 Stelle romane. Che meraviglia, sembrava l'ultima cena, non lo so. Gode così, ma lui va al premio Giachetti per me, ma vorrei sentire da Vincino e Veronica in conclusione, il tuo premio Giachetti, caro Vincino, a chi va? Mi sembrava che l'avrei data a Brunetta. A Brunetta, premio al presidente Brunetta. Tu, Veronica? Al presidente del gruppo consiglio, del gruppo della Camera di Forza Italia, a Brunetta. Dai, Veronica, che Sua devo chiedere. Sua eccellenza Brunetta. Sì, Sua Eminenza. Dai, 3 secondi, di uno. No, non so. Dallo a me, ma chi te ne frega? Volevo darla a te, va bene. Hai litigato al turpiloquio, quindi l'hai dato a me, esagerato. Dai, vi devo abbracciare, Vincino e Veronica Gentili. Grazie. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono qui, cari ascoltatori, eccoci alle 7:19 minuti. Ancora mando un abbraccio a tutti coloro che a loro volta mi mandano un abbraccio per il mio ritorno. Ci sono, siamo qui per la rassegna stampa di 24 mattino, lo spazio della lettura dei giornali. Ci siamo, caro Peter, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È lunedì 19 di dicembre e allora intanto i titoli è l'apertura del Sole 24 Ore dedicata a fisco, pensioni, lavoro, i nodi delle partite IVA. Questo è il titolo di prima pagina. Poi è la politica. Ieri c'è stata l'assemblea del PD. È la politica che tiene banco. C'è anche il caso Roma. In ogni caso, per il Corriere della Sera, Mattarellum e voto in aprile. Questo è l'appello di Renzi, che accelera alle urne il prima possibile. Il titolo di prima pagina. Per Repubblica anche Renzi, andare al voto con il Mattarellum. Grillo e Forza Italia chiudono. L'apertura del giorno, il PD difende il maggioritario, mentre il giornale Renzi torna bullo e vuole una legge ad personam. L'apertura del Messaggero, Renzi autocritica e tregua nel PD. Mentre il Fatto Quotidiano, pure Renzi commissariato. Solo La Stampa apre su Montepaschi, Montepaschi sul mercato, Merkel, l'Italia rispetti le regole, da oggi l'aumento di capitale, il Tesoro pronto a intervenire. Mentre Libero dedica l'apertura al grillo calante, crisi nera nel Movimento 5 Stelle. La politica, come vedete, tiene banco. Io però voglio partire da questo scoop che c'è sul Corriere della Sera, che riguarda uno dei delitti di cronaca, uno dei fatti di cronaca nera che ha tenuto sicuramente inchiodato l'Italia e ha diviso l'Italia, la vicenda dell'omicidio di Garlasco. Non so se ve la ricordate, era il 13 agosto 2007, l'uccisione di Chiara Poggi. Per questa uccisione è in carcere a scontare una pena definitiva l'ex fidanzato Alberto Stasi. Ebbene, oggi il Corriere della Sera pubblica in prima pagina, con Andrea Galli e Cesare Giuzzi, una notizia che, se confermata, potrebbe riaprire addirittura il caso. Ora ha un'identità al DNA sotto le unghie di Chiara. È un giovane della zona. Insomma, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi non è di Alberto Stasi. Questo almeno secondo il racconto, la notizia che la famiglia di Alberto Stasi, quindi la madre di Alberto Stasi, dà al Corriere della Sera. Leggo da pagina 10. Il profilo DNA trovato isolato sotto le unghie di Chiara Poggi non appartiene all'ex fidanzato Alberto Stasi, all'epoca studente universitario Bocconi, ma appartiene a una persona di sesso maschile, probabilmente un giovane che potrebbe gravitare nel vecchio giro di amicizie oppure di conoscenze di chi, ovviamente, di Chiara Poggi, la 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco. A 9 anni dall'omicidio e a 1 anno dalla condanna definitiva successiva a 2 assoluzioni che aveva portato l'oggi 33enne Stasi a costituirsi nel carcere di Bollate, la madre Elisabetta Ligabò condivide con il Corriere questa rivelazione shock. Ora la mamma di Stasi dice: non ho fatto che ripeterlo e ora ne ho la conferma. Mai e poi mai Alberto avrebbe potuto uccidere Chiara. Si amavano e avevano progetti in comune. Amo mio figlio, l'avrei amato anche da colpevole, ma chissà del delitto ha continuato a non parlare, stare nascosto, scegliendo un silenzio terribile, asfissiante, atroce, che ha coperto e depistato. Questa ovviamente è la posizione della mamma, ma certo ora chiede lei, da mamma e non solo, la revisione del processo, chiede che il figlio esca subito dal carcere. Sicuramente dopo questa notizia ci saranno sviluppi, e questa notizia è messa in prima pagina e 2 pagine all'interno del Corriere della Sera, che potrebbero riaprire o aprire nuovi scenari in questo delitto, il delitto di Garlasco. Vabbè, lasciamo la cronaca, tuffiamoci intanto su alcune notizie. Questa di analisi economica è molto interessante, la trovate sulla Stampa pagina 9. Daniele Marini, che è un docente a Padova, racconta questa rilevazione sugli italiani fatta da Community Media Research per la Stampa, in collaborazione anche con Intesa San Paolo. È in pratica un bilancio sul come si sentono gli italiani. Il titolo è molto chiaro. Pessimista il 40% degli italiani. Cresce il divario poveri-ricchi. Peggiora la percezione della situazione politica e di quella economica. Per il 2017 poche le aspettative, soprattutto tra pensionati e ceti medi. Siamo marginali, dicono. Il quadro generale che emerge Su come sono andate le cose nel 2016, mediamente il 44,6% degli italiani non ha percepito cambiamenti sostanziali. Per contro, una quota analoga, cioè il 42,6%, denuncia un peggioramento rispetto all'anno precedente, mentre solo il 12,8% degli italiani registra un miglioramento. La media nasconde alcune diversificazioni. Gli aspetti che hanno avuto scostamenti particolari sono la sicurezza personale, per il 56,8% degli italiani è peggiorata, il reddito percepito, per il 53,7%, e la lotta all'evasione fiscale. Questi sono i settori che vedono gli italiani avere degli scostamenti più grandi in questa ricerca, che comunque è tutta poi spiegata, pagina 9 della Stampa, è l'Italia delle disuguaglianze, soprattutto emerge questo divario tra poveri e ricchi, un divario che aumenta sempre più. Sicuramente dovremmo mettere tra i ricchi questa persona. Una persona che Sergio Rizzo racconta a pagina 23 del Corriere della Sera è un ingegnere e ha ricevuto per la ricostruzione del sisma in Abruzzo e dunque dell'Aquila 428 incarichi da privati per un controvalore in termini di lavori da fare di 254 milioni e 600 mila euro. Succede anche questo. Sergio Rizzo racconta l'ingegnere dei 428 incarichi nella ricostruzione dell'Aquila. I dati sono da oggi online e si scopre per esempio la storia di Antonello Salvatori, che sicuramente deve essere il più bravo di tutti, scrive Sergio Rizzo. Diversamente non si capisce come abbia potuto collezionare 428 incarichi. E considerando che l'onorario per ingegneri e architetti, terremoto no, è sempre il 10% dell'importo dei lavori, che sono 254 milioni, fa appunto 25 milioni di parcelle. Senza dubbio il migliore, questo professore di scienza delle costruzioni dell'Università dell'Aquila, con tutto il lavoro che ha, è stato scelto anche per fare l'esame dei danni del sisma in centro Italia, nemmeno fosse Superman. Va detto che neppure qualche suo collega si può lamentare. Sapete quanti incarichi hanno avuto i primi sei professionisti impegnati nella ricostruzione privata del terremoto in Abruzzo? 1685, in media 280 ciascuno, il che dice tutto su ciò che un sisma del genere può mettere in moto. I dati sono online da oggi, numeri completi che potrete trovare sul sito opendataricostruzione.gssi.it. È un progetto di ricerca del Gran Sasso Science Institute e dell'Ateneo dell'Aquila, con la collaborazione anche del Comune dell'Aquila. E allora su opendataricostruzione.gssi.it da oggi sono disponibili questi dati, tra cui questo elenco, insomma, non indifferente di 428 incarichi per il professor Antonello Salvatori, ma ce ne sono anche altri che hanno un certo numero di incarichi. Oh, prima si parlava di evasione fiscale come uno degli elementi che nella ricerca fatta dalla Stampa colpiscono di più gli italiani, e Federico Fubini oggi racconta per il Corriere della Sera, pagina 19, questa storia, che è la storia che vince il premio Mani sul Volante, per l'articolo che mi fa più della giornata. Mani sul volante anche perché si parla di auto, peraltro, di auto di lusso. È una ricerca molto interessante, un modello sviluppato da Elio Montanari, che è un ricercatore indipendente con una lunga esperienza di studi per sindacati e nella valutazione di impatto dei fondi europei, che racconta il discostamento tra i redditi al top, quelli che permetterebbero agli italiani di comprarsi una bella auto, quella di lusso, e il numero di auto di lusso che invece sono in circolo. Cioè c'è un discostamento evidente. In Italia più auto di lusso che redditi al top. Il ritratto è quello di un paese nel quale i modelli di auto in circolazione dal costo di almeno 100.000 euro risultano di un terzo più numerosi dei redditi IRPEF di fascia alta. In alcune regioni spicca soprattutto la Calabria, che presenta la quota più bassa d'Italia di dichiarazioni IRPEF sopra i 120.000 euro. Pensate, solo lo 0,17% dei calabresi. Eppure lì il numero di Aston Martin, Audi di grossa taglia, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Maserati, Rolls Royce è il triplo rispetto alle dichiarazioni più elevate. Poco importa che anche un reddito IRPEF da 120 o 150 mila euro molto spesso non basti per poter comprare o mantenere un'auto di quel tipo. in Basilicata, Puglia, Umbria, Abruzzo, Trentino, Alto Adige, la proporzione di supercar rispetto alle IRPEF elevate è più che doppia. In Sicilia e Veneto è quasi doppia. Solo in 4 regioni su 20, sono Lombardia, Lazio, Liguria e Piemonte, si contano più dichiarazioni IRPEF da 120.000 euro o più che cosiddette supercar. E allora, eccole qua. In Calabria, 0,17% di redditi sopra i 120.000 euro, ma lì Aston Martin, Jaguar, Lamborghini, Porsche, ale. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, etichetta rossonera, il conduttore che crea un'atmosfera. Va bene, alle 7:34 minuti, cari ascoltatori, eccoci qui, ben ritrovati. Allora, la politica, come detto, è il tema principale per molti quotidiani. Sicuramente ieri c'è stata l'assemblea del PD, poi c'è la vicenda di Roma, le beghe che devono risolvere quelli del Movimento 5 Stelle dopo l'arresto di Marra. Ma partiamo dal PD per l'appunto. Ieri Renzi ha parlato, ha chiarito, abbiamo non perso ma straperso. Ora la legge elettorale, questo è il titolo di pagina 2, io infatti l'ho scritto su Twitter, è partita e si è aperta oggi la prima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ci risiamo con il conteggio, è anche partita oggi la 190esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, ma adesso riparte anche il tema legge elettorale. Renzi ha detto si può votare con il Mattarellum, facciamo il Mattarellum. Confesso di aver avuto la voglia di mollare. È il New Deal di Matteo Renzi, lo descrive così Monica Guerzoni a pagina 2 del Corriere della Sera. Comincia dunque con un bagno di umiltà e la missione dolorosa che la botta al referendum costringa il PD a ripartire da zero. Non abbiamo perso, ma straperso. E davanti ai 1200 dell'Assemblea Nazionale del Seminterrato dell'Ergife a Roma, inaugura il nuovo corso da lui definito la fase Zen. Secondo la stampa, addirittura in questa fase Zen, Matteo archivierà il renzismo, farà viaggi studio all'estero, cercherà un basso profilo. Questo almeno racconta Fabio Martini a pagina 5 della stampa, anche se altri come Repubblica, Goffredo De Marchis nel retroscena pagina 3 dice: Matteo inaugura la fase Zen, ma la roadmap non cambia. Urne a giugno, forse prima. Una veloce autocritica, soprattutto sul sud, sui giovani, ma poi racconta la stessa Repubblica. In realtà nessuno crede a un Renzi che faccia un passo di lato, nessuno crede a un Renzi, come racconta Aldo Cazzullo a pagina 3 del Corriere della Sera, nessuno crede a Renzi e alla sua nuova fase Zen. Più dichiara di non cercare rivincite, più appare evidente che la voglia di rivincite gli scappa da ogni parte. Ieri non era il momento giusto per parlare di elezioni anticipate con il conte Gentiloni silente a fianco. Il neo premier si è mosso solo per salutare i delegati con le mani giunte, tipo bonzo tibetano. Questo scrive Aldo Cazzullo. Però, in realtà, nonostante questo basso profilo, racconta ai giornali, Renzi sicuramente sta pensando a una sorta di rivincita, sta pensando all'immediato futuro. Certo, il brivido vero lo ha regalato Roberto Giachetti, che ha preso la parola all'assemblea del PD e dopo aver detto che stava cercando in alcuni francesismi per definire il comportamento di Roberto Speranza, ex capogruppo del PD, che ha deciso di candidarsi alla segreteria del PD, poi si è lasciato travolgere da l'unica definizione che ho è questa: caro Speranza, hai la faccia come il culo. E qui Giachetti ha animato sicuramente l'assemblea del PD sdoganando l'insulto a faccia aperta. Tanto che Roberto Speranza, intervistato dalla stampa da Alessandro Di Matteo a pagina 4, dice: l'offesa che mi è rivolta è simbolo dell'arroganza nel Partito Democratico. Mi interessa molto relativamente l'incontinenza verbale di Giachetti. Uso una battuta di Renzi: lo stile è come il coraggio di Don Abbondio, se non ce l'hai non puoi dartelo. C'è una violenza verbale tra le forze politiche, un imbarbarimento, così Roberto Speranza. Vabbè, insomma, c'ha effettivamente, su questo c'hai la faccia come il culo, insomma, Giachetti la toccata piano, come si suol dire. E infatti il giorno titola proprio così: Giachetti rompe l'atmosfera zen, speranza, hai la faccia come il culo. Così proprio testuale nel titolo di pagina 4. In tutto questo c'è una prima risposta da parte di Forza Italia, almeno Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, viene intervistato una pagina da Dino Martirano a pagina 6 del Corriere della Sera e dice: se il PD vuole noi siamo pronti. Ma no, no al prendere o lasciare. Di Renzi, dice Toti, ho apprezzato la premessa corretta, cioè quel abbiamo straperso. Il Mattarellum, dice Toti, può essere una base di discussione. Resta da chiedersi però se un sistema nato per uno schema bipolare possa considerarsi efficiente anche in un sistema compiutamente tripolare. Il rischio con tre squadre è quello di non produrre un vincitore. Il centrodestra è pronto per il voto, chiede il Corriere, risponde Toti. Il centrodestra non può fare solo da spettatore al derby Renzi-Grillo, nocivo per il paese, ma propone formule di governo e soluzioni ai problemi. Ripartiamo dalla classe dirigente di comuni e regioni che amministriamo, ma anche in Parlamento, che non è certo tutto da buttare. Così Toti. In tutto questo c'è Roma, ma c'è anche Milano, con l'autosospensione un po' così strana del sindaco di Milano Sala. E poi Roma, c'è una Virginia Raggi che è stata terremotata almeno dall'arresto del fedelissimo Marra, che ha sempre difeso, e ora ha a che fare con una sorta di restaurazione. Questo è il tema. Secondo la Repubblica, Raggi farà un po' quella che farà finta di cambiare, ma vuole tenere il controllo della situazione. La restaurazione di Raggi, vice sindaco, un fedelissimo, così torna il raggio magico. Questo è il titolo di Repubblica a pagina 6. Giovanna Vitale racconta di un sindaco di Roma stretta tra l'ira del capo, cioè Grillo, e diktati impossibili da ignorare, ma Virginia Raggi si prepara al grande bluff. Sedersi al tavolo del rimpasto di giunta, apparecchiato da Casaleggio dopo l'arresto di Raffaele Marra, con l'intenzione di cambiare tutto per non cambiare quasi nulla. La sindaca vorrebbe, con la stessa squadra, eccetto il braccio destro finito in galera, vuole mantenere Daniele Frongia, che ha perso la carica da vice sindaco, ma continuerà a lavorare al suo fianco come prima. Salvatore Romeo, da funzionario comunale, potrà restare comunque nel palazzo. L'assessore al bilancio Mazzillo, già capo staff, verrà promosso numero 2. E se la mossa non dovesse riuscire, è pronto il piano B: far diventare vice l'attuale titolare della cultura Luca Bergamo, che è già stato contattato e si è detto disponibile. Mentre, secondo i giornali, Casaleggio, Grillo vorrebbero mettere come vice sindaco quel Massimo Colomban, veneto, assessore alle partecipate, molto vicino a Casaleggio, paracadutato da qualche tempo a Roma e che è l'uomo più fedele secondo Casaleggio, e dovrebbe lui fare il vice sindaco. Insomma, il titolo del Corriere è emblematico: Raggi, giorni difficili. Il Movimento 5 Stelle diviso su Colomban. C'è un'altra persona all'interno del 5 Stelle che è un po' in difficoltà per questa vicenda dell'arresto di Marra. È Di Maio, il vicepresidente della Camera, che ieri in un post ha scritto. Di Maio, è apparso un post sul blog di Beppe Grillo, Di Maio chiese a Marra di allontanarsi dal gabinetto del sindaco, questo è il senso di questo post. In realtà i giornali ricostruiscono un po' le vicende, vanno a spulciare nelle interviste di recente di Di Maio e anche a domande che gli sono state fatte su incontri con Marra, e sui giornali non è che emerge poi così tanto questa rottura tra Di Maio e Marra. I buchi nella verità del Delfino, questo racconta per esempio Alessandro Trocino a pagina 8 del Corriere della Sera. E anche Repubblica, scusate, La Stampa con Ilario Lombardo: Di Maio mai sostenuto Marra, ma a luglio difese la sua nomina. Il fondatore lo difende, ma Marra disse al Fatto Quotidiano: ho avuto un incontro molto cortese con lui, ho visto Di Maio, l'ho cercato io, mi ha ascoltato, è stato molto cortese. Questa è la versione di Raffaele Marra in un'intervista al Fatto Quotidiano. Certo, a Roma la situazione è di quelle toste. Anche il Messaggero titola pagina 6: raggio, ora è battaglia sul vice sindaco Colombano Mazzillo. E poi l'inchiesta, così Marra anticipava le nomine, tanto che secondo il Giorno, questa è una notizia che è riportata soprattutto dal Giorno, anche la Raggi finisce ora nella rete dei magistrati e secondo i legali di Casaleggio l'avviso di garanzia è quasi sicuro, rischia l'accusa di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Di fronte a un avviso di garanzia, certo, per il sindaco Raggi ci potrebbe essere sicuramente una situazione ben più complicata. In ogni caso, è il momento di salutare un uomo che è pronto forse alle vacanze tra poco. È gioioso perché ieri la sua Inter ha vinto, incredibile dictu, ma insomma, il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno Alessandro, vedo che mi fai precedere da un avviso di garanzia, quindi... No, da una vittoria dell'Inter. Dalla vittoria dell'Inter. Vedi come ho preso del tempo. Per così dire. Allora, io essendo lunedì, io andrei con gli endecasillabi. Natale, no? Capodanno, insomma, comunque si va con gli endecasillabi. Vai. E quindi vado a leggere, anzi a declamare. Tornare noi al duetto consueto che ci vuol contrapposti in buon mattino, sì che l'ascoltator divenga lieto, finché al lavoro, a scuola è più vicino. Tornare, ti dicevo, caro Alino, davvero può suonare astruso gesto per verseggiare in tono malandrino dell'IVA, di Voluntari e del resto. Capiente è anche stamani il nostro sole di inchieste, di commenti e di risposte dell'attuazione che la manovra vuole e novità fiscali molto toste. Questo e non sol, vedranno gli lettori, e il nostro faticar sarà apprezzato. Ma in questo giorno so che il più dei cuori è qui solo per darti il bentornato. Io che poeta il lunedì mi faccio, forse non avrò un Nobel come Dylan, però ora dico traffico e non taccio, per questa volta aggiungo, forza Milan! Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Aggiustiamo gli ombrelli. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. È sempre il migliore questo. È sempre il migliore. La vostra cucina ci riporta all'infanzia, caro Peter. Va bene, allora, La Stampa è l'unico giornale che mette da parte la politica come apertura e apre invece su Monte Paschi Siena, perché aprono quelli che si vengono definiti i quattro giorni più lunghi della recente storia bancaria italiana, oggi alle 9. I quattro giorni che sconvolgeranno Montepaschi. No di Merkel a un intervento pubblico. Questo è il titolo di pagina 2 della Stampa. Racconta Teodoro Chiarelli, parte il tanto atteso e periglioso aumento di capitale del Montepaschi, la banca più antica del mondo, per l'offerta pubblica da 5 miliardi dedicata per il 30% agli azionisti e per il 5% al pubblico indistinto. Il termine è mercoledì 21 alle 14. Ci saranno 24 in più per il collocamento istituzionale, cioè il 65% dell'offerta globale. Il rischio che l'operazione di mercato lanciata da Montepaschi possa fallire, anche solo parzialmente, è reale e non se lo nascondono né i vertici della Banca Senese né il Ministero del Tesoro e Palazzo Chigi. Si tratta di capire se il salvataggio della banca possa passare solo per la soluzione privata o al contrario se sia indispensabile aprire l'ombrello pubblico. Su questo è intervenuta anche Angela Merkel, o meglio uno stretto collaboratore di Angela Merkel, Christoph Schmidt, uno dei 5 saggi consiglieri economici della cancelliera. Non ha usato mezzi termini in una intervista a un giornale tedesco riportata da Bloomberg. Ha detto il salvataggio di Montepaschi dovrebbe avvenire secondo regole concordate, cioè i creditori della banca devono contribuire al soccorso e non il contribuente. Se l'Italia non rispetta le regole alla prima grande prova, l'unione bancaria non è credibile, ha detto Christoph Schmidt. Ma chiaro che queste frasi vengono in qualche modo attribuite anche alla cancelliera tedesca. Tra l'altro Gianluca Paolucci, sempre sulla Stampa pagina 3, racconta quale sia la posta in gioco, e la posta in gioco, si legge dal titolo, sono i risparmi di 200.000 famiglie. Con un intervento del governo perderebbero tutto, ma il tesoro non potrà superare la sua quota del 4%. C'è l'analisi di Gianluca Paolucci, ve la segnala a pagina 3 della Stampa. Certo sarà una settimana molto calda, altro che Natale, altro che clima, in quel di Siena. Oh, qui invece il caldo c'è ed è una bella inchiesta, sempre sulla Stampa, di Roberto Scarcella, che in realtà fa un reportage da Eupen, un paesino al confine tra Belgio e Germania, per raccontare quello che succede in Qatar. Voi dite, ma che è questo, una geografia impazzita? E no, il Qatar si compra la nazionale per i mondiali del 2022. I mondiali di calcio sono in Qatar per l'appunto. Per la verità, racconta in questo reportage la Stampa, è un qualcosa che il Qatar fa già in vari sport. Per esempio, l'uomo più veloce d'Asia si chiama Femi Ogunode, gareggia per il Qatar, corre 9,91 sui 100 metri. Nel suo continente non ha rivali, il problema è che è africano. Ma cosa fanno in Qatar? Comprano, nel senso offrono la nazionalità ai grandi, o a quelli magari non grandissimi, degli ottimi sportivi, per cercare poi di vincere le medaglie. Questo succede in atletica leggera, nel ping pong, nel pugilato, nel beach volley, poco importa, l'obiettivo è vincere partite e tornei, conquistare medaglie, battere record, ritagliarsi uno spazio sempre più grande nella mappa dello sport mondiale. Ed ecco da qui che parte questa inchiesta per dire che stanno facendo lo stesso nel calcio, con test qualità nel campionato belga. Ecco perché il reportage da Eupen, in questa cittadina, dove il Qatar, i emissari del Qatar, cercano di vedere quali sono i giocatori migliori per il futuro, per poi offrire loro la nazionalità del Qatar e farli giocare nella nazionale del Qatar. Ecco da qui il titolo: il Qatar si compra la nazionale per i mondiali 2022. Dopo l'atletica tocca il calcio, fanno offerte da capogiro per convincere i giocatori a cambiare passaporto. E qualcuno evidentemente lo farà. Vi segnalo invece per la cronaca dal giornale, Paola Fucilieri racconta di un imam tunisino di Como espulso dall'Italia, faceva propaganda per l'ISIS. Era riuscita a integrarsi bene in Italia, quasi quasi diventava uno di noi, come viene definito, forse lasciando che si applicasse ulteriormente ce l'avrebbe anche fatta. Si chiama Belkacem Ben Mohammed Beladi, 49 anni, tunisino, padre di due bimbi, residente a Lurago d'Erba, 12 km da Como, e può essere però considerato una mente dell'ISIS, un pezzo grosso, dotato di notevole arguzia e spessore intellettuale di tutto rispetto. Era in contatto con un noto siriano, Shaddad Tamer, considerato importante terminale per il reclutamento di combattenti dall'Italia alla Siria, è stato espulso ieri con provvedimento da Digos di Como, portato a Malpensa e fatto salire sul primo volo per Tunisi. L'uomo che viveva da 20 anni in Italia era uno dei vice direttori del centro islamico di Via Pino, nella frazione comasca di Camerlata. Certo, qui c'è sempre il dibattito di capire perché espulsi e non tradotti in carcere, se ci sono gli estremi di propaganda internazionale, di terrorismo internazionale. Vabbè, andrà a Tunisi. Rimarrà a Tunisi? Continuerà a essere tranquillo e sereno? Ho dei dubbi, comunque il giornale lo mette in prima pagina. Vi segnalo invece una storia bella che riguarda una ricercatrice che ha fatto 7000 chilometri in parapendio per salvare i cigni. Eccolo qua, ho volato 7000 chilometri sulla rotta dei cigni. È una biologa ambientalista australiana, si chiama Sasha Dench, ha 41 anni. Ecco come salverò i cigni. È partita dalla Russia in parapendio, è arrivata fino all'Inghilterra per difendere le specie a rischio. Sono protetti, ma c'è chi gli spara. E viene intervistata da Giuliano Aluffi per Repubblica per raccontare il perché ha fatto questo viaggio in difesa dei cigni, 7000 chilometri, rischiando pure una schioppettata evidentemente, perché se ha portato i cigni in giro può darsi che rischiamo anche questo. Questa invece è una bruttissima storia di cronaca, la storia della morte di Giuseppe Scarso, 80 anni, morto dopo 2 mesi di agonia. era stato bruciato per noia da una serie di ragazzi. Tra l'altro ieri c'è stato l'arresto di un 18enne, la storia di Pippo e i ragazzi, come vengono definiti, storia di un uomo bruciato per noia. Giusy Fasano la racconta a pagina 21 del Corriere della Sera, è un'intera pagina, lo faccio vedere anche sul mio profilo Facebook, siamo in diretta sul mio profilo pubblico in questo momento. E siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina, siamo sulla Stampa. Paolo Mastrolilli, inviato a New York, racconta la nuova mania del ballo dello starnuto. Che minchia è il ballo dello starnuto, Peter? Tu sicuramente c'hai un video in cui sei stato ripreso nella dab mania, ma cos'è il ballo dello starnuto, fenomeno del 2016, da Hillary, anche Hillary Clinton l'ha fatto, Pogba, l'energia del gesto virale, cos'è una roba tipo così, scusate, non si sente così, cioè, una, Harry, l'ha fatto anche Harry, si è esibito ad Antigua, la versione prima, una pagina sulla dab mania, il ballo dello starnuto! Ma chi se ne frega!